Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari. Era quello che Sandokan desiderava, di potersi trovare anche per pochi minuti solo con la giovinetta, forse per svelare la gigantesca passione che divoravagli il cuore. Appena si vide solo, si avvicinò rapidamente ad una finestra che guardava su di un immenso parco. Là, all'ombra di una magnolia di cina tempestata di fiori dall'acuto profumo, seduta sul tronco rovesciato di una areca, stava la giovane Lady. Era sola, in atteggiamento pensoso, con la mandola sulle ginocchia. A Sandokan parve una celeste visione, tutto il sangue gli affluì al capo e il cuore si mise a battergli con veemenza indescrivibile. Egli rimase lì con gli occhi ardentemente fissi sulla giovinetta, trattenendo perfino il respiro come se avesse paura di turbarla. Ad un tratto però diede indietro, mandando un grido soffocato che parve un lontano ruggito. La sua faccia si alterò spaventosamente, prendendo una feroce espressione. La tigre della Malesia, fino allora affascinata, stregata, ora che si sentiva guarita, improvvisamente si risvegliava. Tornava l'uomo feroce, spietato, sanguinario, dal cuore inaccessibile ad ogni passione. «Che cosa sto per fare?» io, esclamò con voce rauca, passandosi le mani sull'ardente fronte. «Ma che sia proprio vero che io amo quella fanciulla, è stato un sogno o d'una inesplicabile pazzia? Che io non sia più il pirata di Mompracem per sentirmi attratto da una forza irresistibile verso quella figlia di una razza alla quale io ho giurato odio eterno? Io amare! Io che non ha provato altro che impeti di odio e che porto il nome di una belva sanguinaria. Dimenticherei io forse la mia selvaggia Mompracem, i miei fedeli tigrotti, il mio Yanez che mi aspettano chissà mai in quali ansie. Dimentico io forse che i compatrioti di quella fanciulla non aspettano che il momento propizio per distruggere la mia potenza». Via questa visione che mi ha perseguitato per tante notti, via questi fremiti che sono indegni della tigre della Malesia. Spegniamo questo vulcano che mi arde in cuore e facciamo invece sorgere mille abissi fra me e quella sirena incantatrice. Su, tigre, fa udire il tuo ruggito, seppellisci la riconoscenza che devi a queste persone che ti hanno curato. Va, fuggi lontano da questi luoghi, ritorna a quel mare che senza volerlo ti spinse su queste spiagge, ritorna il temuto pirata della formidabile Mompracem. Sandokan, così parlando, si era rizzato innanzi alla finestra coi pugni chiusi e i denti stretti, tutto fremente di collera. Gli parve di essere diventato un gigante e di udire in lontananza le urla dei suoi tigrotti che lo chiamavano alla pugna e il rombare delle artiglierie. Tuttavia egli rimase là, come inchiodato dinanzi alla finestra, trattenuto da una forza superiore al suo furore, con gli occhi sempre ardentemente fissi sulla giovane Lady. «Marianna!» esclamò ad un tratto. «Marianna!» A quel nome adorato, quel trabocco d'ira ed odio sfumò, come nebbia al sole, la tigre tornava uomo, e per di più amante. Le sue mani corsero involontariamente al gancio e con un rapido gesto aprì la finestra. Un buffo d'aria tiepida, carico del profumo di mille fiori, entrò nella stanza. Nel respirare quei profumi balsamici, il pirata si sentì inebriare e ridestarsi nel cuore più forte che mai quella passione che un momento prima aveva cercato di soffocare. Si curvò sul davanzale ed ammirò in silenzio, fremente, delirante, la vaga Lady. Una febbre intensa lo divorava, il fuoco gli guizzava per le vene riversandosi nel cuore, nubi rosse gli correvano dinanzi agli occhi, ma anche in mezzo a queste vedeva sempre colei che l'aveva stregato. Na, na, na, na, na, na, na, na, quanto rimase là. Molto tempo, senza dubbio, poiché quando si scosse la giovane Lady non era più nel parco. Il sole era tramontato, le tenebre erano calate e in cielo scintillavano miriadi di stelle. Si mise a passeggiare per la stanza con le mani incrociate sul petto e la testa china, assorto in cupi pensieri. «Guarda», esclamò, ritornando verso la finestra ed esponendo la fronte ardente alla fresca aria della notte. «Qui la felicità, qui una nuova vita, qui una nuova ebbrezza, dolce, tranquilla. Laggiù, Mompracem, una vita tempestosa, uragano di ferro, tuonar di artiglierie, carneficine sanguinose, i miei rapidi prahos, i miei tigrotti, il mio buon Yanez. Quale di queste due vite? Eppure tutto il mio sangue arde quando io penso a questa fanciulla che mi ha fatto battere il cuore ancora prima che la vedessi, e nelle vene mi sento correre del bronzo fuso quando io penso a lei. Si direbbe che io l'antepongo ai miei tigrotti e alle mie vendette. Eppur sento vergogna di me pensando che ella è figlia di quella razza che odio così profondamente. Se la dimenticassi... Tu sanguini, mio povero cuore. Tu non lo vuoi, adunque? Prima ero il terrore di questi mari. Prima non avevo mai saputo cosa fosse affetto. Prima non avevo gustato che l'ebbrezza delle battaglie e del sangue. Ed ora sento che non potrei gustare più nulla lontano da lei. Si tacque, porgendo ascolto allo stormire delle fronde e al sibilo del suo sangue. E se frapponessi fra me quella donna divina, la foresta, poi il mare, poi dell'odio? Riprese egli, dell'odio. E potrei io odiare costei? Eppure bisogna che io fugga, che ritorni alla mia Mompracem fra i miei tigrotti. Se io rimanessi qui, la febbre finirebbe per divorare tutta la mia energia. Sento che spegnerei per sempre la mia potenza, che non sarei più la tigre della Malesia. Orsù, partiamo. Guardò giù. Tre soli metri lo dividevano dal suolo. Tese gli orecchi e non udì rumore alcuno. Scavalcò il davanzale e saltò leggermente tra le aiuole e si diresse verso l'albero sul quale poche ore prima era assisa Marianna. «Era qui che ella riposava», mormorò egli con voce triste. «Oh, quanto eri bella, oh Marianna! Ed io non ti rivedrò mai più e non udrò mai più la tua voce, più, più!» Si curvò sull'albero e raccolse un fiore, una rosa dei boschi che la giovane Lady aveva lasciato cadere. L'ammirò a lungo, la fiutò più volte e appassionatamente se la nascose in petto. Quindi mosse rapidamente verso la cinta del parco, mormorando «Andiamo, Sandokan, tutto è finito». Era giunto sotto la palizzata e stava per prendere lo slancio quando retrocesse vivamente, con le mani nei capelli, lo sguardo torvo e mettendo una specie di singhiozzo. «No, no, no», esclamò egli con accento disperato, «non posso, non posso. Che si inabissi Mompracem, che si uccidano i miei tigrotti, che si disperda la mia potenza, io rimango». Si mise a correre nel parco come se avesse paura di ritrovarsi sotto le palizzate della cinta e non si arrestò che sotto la finestra della sua stanza. Esitò un'altra volta, poi con un salto si aggrappò al ramo di un albero e raggiunse il davanzale. Quando si ritrovò in quella casa che aveva lasciata con la ferma decisione di mai più ritornarvi, un secondo singhiozzo gli rumoreggiò in fondo alla gola. «Ah!» esclamò egli. «La tigre della Malesia sta per tramontare». Capitolo ottavo. La caccia alla tigre. Quando ai primi albori il Lord venne a bussare alla porta, Sandokan non aveva ancora chiuso occhio. Ricordandosi della partita di caccia in un baleno, balzò dal letto, si passò fra le pieghe della fascia e il fedele Chris ed aprì la porta dicendo: «Eccomi, milord». «Benissimo», disse l'inglese, «non credevo di trovarvi così pronto, caro principe. Come state? Mi sento tanto forte da rovesciare un albero. Allora affrettiamoci, nel parco ci aspettano 6 bravi cacciatori, i quali sono impazienti di scovare la tigre che i miei battitori hanno cacciata in un bosco. Sono pronto a seguirvi. E Lady Marianna verrà con noi. Certamente, anzi credo che ci aspetti». Sandokan sfogò un grido di gioia. «Andiamo, milord», disse, ardo dal desiderio di incontrare la tigre. Uscirono e passarono in un salotto le cui pareti erano tappezzate ad ogni specie di armi. Fu colà che Sandokan trovò la giovane Lady, più bella che mai, fresca come una rosa, splendida nel suo costume azzurro che risaltava vivamente sotto i suoi capelli biondi. Nel vederla Sandokan si arrestò come abbagliato, poi muovendole rapidamente incontro le disse stringendole la mano: «Anche voi della partita?» «Sì, principe, mi hanno detto che i vostri compatrioti sono valentissimi in simili cacce e voglio vedervi». «Io inchioderò la tigre col mio Chris e vi regalerò la sua pelle». Esclamò ella con spavento, «vi potrebbe toccare qualche nuova disgrazia. Per voi, milady, mi farei sbranare, ma non temete, la tigre di Labuan non mi atterrerà». In quel mentre il lord si avvicinò, porgendo a Sandokan una ricca carabina. «Prendete, principe», disse, «una palla talvolta vale meglio del Chris più temperato. Ora andiamo, che gli amici ci aspettano». Discesero nel parco dove erano aspettati da 5 cacciatori, 4 erano coloni dei dintorni, il quinto era invece un elegante ufficiale di marina. Sandokan, nel vederlo, senza sapere precisamente il perché, provò subito per quel giovanotto una violenta antipatia, però represse quel sentimento e porse a tutti la mano. All'incontro l'ufficiale lo fissò lungamente, in una strana guisa, poi, approfittando del momento in cui nessuno faceva a lui attenzione, si avvicinò al lord che stava esaminando la bardatura di un cavallo, dicendogli a bruciapelo: «Capitano, credo di aver veduto ancora quel principe malese». «Dove?» chiese il milord. «Non mi rammento bene, ma ne sono certo». «Bah, vi ingannate, amico mio». «Lo vedremo in seguito, milord». «Sia pure. In sella, amici, che tutto è pronto. Badate che la tigre è molto grossa e che ha potenti artigli». «La ucciderò con una sola palla e offrirò la pelle a Lady Marianna», disse l'ufficiale. «Spero di ucciderla prima di voi, signore», disse Sandokan. «Lo vedremo, amici», disse il lord. «Orsù, in sella». I cacciatori inforcarono i cavalli che erano stati condotti colà da alcuni servi, mentre Lady Marianna saliva su un bellissimo pony dal mantello candido come la neve. Un segnale del lord, tutti uscirono dal parco, preceduti da parecchi battitori e da 2 dozzine di grossi cani. Appena fuori il drappello si divise, dovendo frugare un grande bosco che si prolungava fino al mare. Sandokan, che montava un focoso animale, si cacciò in uno stretto sentiero, spingendosi audacemente innanzi, onde essere il primo a scovare la belva. Gli altri presero differenti direzioni ed altri sentieri. «Vola! Vola!» esclamò il pirata, spronando furiosamente il nobile animale che seguiva alcuni cani abbaianti. «Bisogna che io mostri a quell'impertinente ufficiale di quanto io sia capace. No, non sarà lui che offrirà la pelle della tigre alla Lady, dovessi perdere le braccia o farmi sbranare». In quell'istante uno squillo di tromba echeggiò in mezzo al bosco. «La tigre è stata scoperta», mormorò Sandokan. «Vola, destriero, vola!» Attraversò come un lampo un lembo di foresta irta di durion, di cavoli palmisti, di areche e di colossali alberi della canfora e giunse addosso a 6 o 7 battitori che fuggivano. «Dove correte?» chiese. «La tigre!» esclamarono i fuggiaschi. «Dov'è?» «Presso lo stagno». Il pirata discese di sella, legò il cavallo al tronco di un albero, si mise il criss fra i denti e, afferrata la carabina, si spinse verso lo stagno indicato. Si sentiva nell'aria un forte odore di selvatico, odore particolare ai felini e che dura qualche tempo anche dopo il loro passaggio. Guardò sui rami degli alberi dai quali la tigre poteva balzargli addosso e seguì con precauzione le rive dello stagno la cui superficie era stata smossa. La belva è passata di qui, disse. La furba ha passato lo stagno per far perdere le tracce ai cani, ma Sandokan è una tigre più astuta. Tornò al cavallo e risalì in arcione. Stava per ripartire quando udì a breve distanza uno sparo seguito da una esclamazione, il cui accento lo fece trasalire. Si diresse rapidamente verso il luogo dove era echeggiata la detonazione e in mezzo ad una piccola radura scorse la giovane Lady. Sul suo bianco pony e la carabina ancora fumante in mano. «Voi, qui, sola!» esclamò. «E voi, principe, come vi trovate qui?» chiese ella arrossendo. «Seguivo le tracce della tigre. Anch'io». «Ma su chi avete fatto fuoco?» «Sulla belva, ma è fuggita senza essere stata toccata». «Gran Dio, perché esporre la vostra vita contro simile fiera?» «Per impedirvi di commettere l'imprudenza di pugnalarla col vostro criss». «Avete avuto torto, milady, ma la fiera è ancora viva e il mio criss è pronto a squarciarle il cuore». «Non lo farete, siete coraggioso, lo so». Lo leggo nei vostri occhi, siete forte, agile come una tigre, ma una lotta corpo a corpo con la belva potrebbe esservi fatale, che importa? Io vorrei che mi causasse tali crudeli ferite da averne per un anno intero. E perché mai? Chiese la giovinetta, sorpresa. Milady, disse il pirata avvicinandosi via più. Ma non sapete che il mio cuore scoppia quando io penso che verrà il giorno in cui dovrò lasciarvi per sempre e non rivedervi mai più. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम Se la tigre mi dilaniasse, almeno rimarrei ancora sotto il vostro tetto. Goderei un'altra volta di quelle dolci emozioni provate quando vinto e ferito giacevo sul letto di dolore. Sarei felice, assai felice, se altre crudeli ferite mi costringessero a rimanere ancora presso di voi, a respirare la vostra medesima aria, a riudire ancora la vostra deliziosa voce, a inebriarmi ancora dei vostri sguardi, dei vostri sorrisi. Milady, voi mi avete stregato. Io sento che lontano da voi non saprei vivere, non avrei più pace, sarei un infelice. Ma cosa avete fatto di me? Cosa avete fatto del mio cuore, che un tempo era inaccessibile ad ogni passione? Guardate, al solo vedervi io fremo tutto e sento il sangue bruciarmi le vene. Marianna, dinanzi a quell'appassionata ed improvvisa confessione, rimase muta, stupita, ma non ritirò le mani che il pirata le aveva prese e che stringeva con frenesia. «Non irritatevi, milady», riprese la tigre, con una voce che scendeva come una musica deliziosa nel cuore dell'orfana. «Non irritatevi se io vi confesso il mio amore, se vi dico che io, quantunque figlio di una razza di colore, vi adoro come un dio, e che un giorno anche voi mi amerete. Non so, dal primo momento in cui mi apparisse, io non ne più bene su questa terra». La mia testa si è smarrita, vi ho sempre qui, fissa nel mio pensiero, giorno e notte. Ascoltatemi, milady, tanto è potente l'amore che mi arde in petto che per voi lotterei contro gli uomini tutti, contro il destino, contro Dio. Volete essere mia? Io farò di voi la regina di questi mari, la regina della Malesia. Ad una vostra parola 300 uomini, più feroci delle tigri che non temono né piombo né acciaio, sorgeranno e invaderanno gli stati del Borneo per darvi un trono. Dite tutto ciò che l'ambizione vi può suggerire e l'avrete. Ho tanto oro da comprare 10 città, ho navi, ho soldati, ho cannoni e sono potente, più potente di quello che possiate supporre. Dio mio, ma chi siete voi? Chiese la giovinetta, stordita da quel turbinio di promesse e affascinata da quegli occhi che parevano mandassero fiamme. «Chi sono io?» esclamò il pirata, mentre la sua fronte si ottenebrava. «Chi sono io?» Egli si avvicinò sempre più alla giovane lady e, guardandola fissamente, le disse con voce cupa: «Vi sono delle tenebre attorno a me che è meglio non squarciare per ora. Sappiate che dietro a queste tenebre vi è del terribile, del tremendo, e sappiate pure che io porto un nome che atterrisce tutte le popolazioni di questi mari, non solo, ma che fa tremare il sultano del Borneo e perfino gli inglesi di quest'isola. E voi dite di amarmi? Voi così potente?» mormorò la giovinetta con voce soffocata. «Tanto che per voi mi sarebbe possibile ogni cosa. Vi amo di quell'amore che fa compiere miracoli e delitti insieme. Mettetemi alla prova, parlate e io vi ubbidirò come uno schiavo, senza un lamento, senza un sospiro. Volete che diventi re per darvi un trono? Io lo diventerò. Volete che io, che vi amo alla pazzia, ritorni a quella terra dalla quale sono partito? Io vi ritornerò, dovessi martirizzare il mio cuore per sempre. Volete che io mi uccida dinanzi a voi? Io mi ucciderò. Parlate, la mia testa si smarrisce, il sangue mi brucia. Parlate, milady, parlate. Ebbene, amatemi», mormorò ella, che si sentiva vinta da tanto amore. Il pirata gettò un grido, ma uno di quei gridi che di rado escono da una gola umana, quasi nello stesso tempo echeggiarono due o tre colpi di fucile. «La tigre!» esclamò Marianna. «È mia!» gridò Sandokan. Cacciò gli sproni nel ventre del cavallo e partì come un fulmine, con gli occhi sfavillanti d'ardire e il kris in pugno, seguito dalla giovanetta che si sentiva attratta verso quell'uomo che giuocava così ardentemente la propria esistenza per mantenere una promessa. 300 passi più oltre stavano i cacciatori dinanzi a loro, a piedi, si avanzava l'ufficialetto di marina col fucile puntato verso un gruppo di alberi. Sandokan si gettò d'arcioni gridando: «La tigre è mia!» Pareva una seconda tigre, spiccava salti di 16 piedi e ruggiva come una fiera. «Principe!» gridò a Marianna, che era discesa da cavallo. Sandokan non udiva nessuno in quel momento e continuava ad avanzarsi correndo. L'ufficiale di marina, che lo precedeva di 10 passi, udendolo avvicinarsi, puntò rapidamente il fucile e fece fuoco sulla tigre che si teneva ai piedi di un grosso albero. Con le cupole contornate, i potenti artigli aperti, pronta a slanciarsi, il fumo non si era ancora dissipato che la vide attraversare lo spazio con impeto irresistibile e rovesciare l'imprudente e maldestro ufficiale. Stava per riprendere lo slancio per gettarsi sui cacciatori, ma Sandokan era lì. Impugnato solidamente il kris, si precipitò contro la belva e, prima che questa, sorpresa da tanta audacia, pensasse a difendersi, la rovesciava al suolo, serrandole la gola con tale forza da soffocarne i ruggiti. «Guardami», disse, «anch'io sono una tigre». Poi, rapido come il pensiero, immerse la lama serpeggiante del suo kris nel cuore della fiera, la quale si distese come fulminata. Un urrà fragoroso accolse quella prodezza. Il pirata, uscito illeso da quella lotta, gettò uno sguardo sprezzante sull'ufficialetto che stava rialzandosi, poi, volgendosi verso la giovane lady, rimasta muta per il terrore e per l'angoscia, con un gesto di cui sarebbe andato altero un re, le disse: «Milady, la pelle della tigre è vostra».